una donna di nome Maria, è arrivata stanotte dal sud, è arrivata col treno del sole, ma ha portato qualcosa di più, ha portato due labbra a corallo e i suoi occhi son grandi così, mai nessuno che l'abbia baciata, a nessuno ha mai detto di sì. Ai Maria, ai Maria, ai Maria. Ha posato la cesta d'arance e mi ha dato la mano perché la portassi lontano per sempre, la tenessi per sempre con me. Io le ho preso una mano ridendo e non gliel'ho lasciata mai più. Poi siamo corsi veloci nel vento per non farci trovare qua giù. Ai Maria, ai Maria, Maria, ai Maria. Una donna di nome Maria è arrivata stanotte dal sud, è arrivata col treno del sole, ma ha portato qualcosa di più. Ai Maria, ai Maria.